Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Questi politici bisogna attaccarli alla radro, e a guidare la radro sai che ci mettiamo Giannino ingazzato con una frusta a 9 code. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Prendi 2 elementi innocuis e separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora, eccoci qui, 8 e 20 minuti, caro Oscar Giannino, buongiorno, come va? Eccoci qua, buon ottimo giovedì, anzi 12 novembre, e caro Alessandro Milan, oggi, sai che santo è oggi, è il patrono dell'Ungheria, con quello che ne ha bisogno l'Ungheria, però è San Giosafat, patrono dell'Ungheria, prendi l'abate e portalo via. Questo l'abate. Lancio subito. L'abate di Montescassino, come l'ha definito Massimo Gramellini sulla stampa. Sua eccellenza Monsignor Vittorelli, esattamente. Vittorelli, 500.000 euro di soldi nostri. Possiamo dire nostri? Beh, quelli dell'8 per 1000 sicuramente nostri. Il Messaggero nostri. Infatti fa il titolo: rubava l'8 per 1000, come dicevamo qualche giorno fa. O i soldi per la carità. L'abate di Montescassino rubava i soldi. 500.000 euro per, usati per cene, viaggi, ecstasy, l'ecstasy. Ecstasy, locali di feste sessuali, nessun problema, la sua vita era questa qua. E quando poi gli hanno detto non puoi indossare l'abito vescovile, lui ha continuato bellamente a fare eccetera eccetera eccetera. E va bene, insomma. Però il Vaticano indaga i giornalisti. Il Vaticano ha messo sotto indagine i 2 giornalisti, Nuzzi e Fittipaldi. Ma tra l'altro che cosa succede adesso? Cioè, se vanno alla messa in Vaticano vengono presi dalle guardie? No, ma è una domanda seria la mia. Cioè, vorrei capire, cioè, possono mettere piede in Vaticano, andare in San Pietro, oppure le guardie svizzere li accompagnano? No, in teoria se vanno in Vaticano la gendarmeria può chiedergli di seguirli presso gli uffici dei postulatori, cioè dei pubblici ministeri, per così dire. D'altronde il Papa l'aveva detto all'Angelus, trafugare questi documenti non è peccato, è reato. Evidentemente in Vaticano l'hanno preso alla lettera. Bene, io mi batto per il diritto dei parroci senza soldi che si prodigano per la loro missione di sapere, loro ho detto di sapere di tutti gli abati di Montecassino che fanno vita da principesse, lo dico apposta, e rubando i soldi, e io difendo il loro diritto. Quindi mi sembra che queste indagini sugli autori dei libri siano roba di Monsignor Bellarmino contro Galileo. Ridicola. Il Fatto Quotidiano ci cita proprio così: l'inquisizione contro Nuzzi e Fittipaldi. Questo Papa meriterebbe regole diverse da quelle che inquisiscono chi scrive i libri che rivelano gli scandali vaticani. Poi attenzione, non ci sono solo gli scandali vaticani, No, Regione Sicilia, boom di nomine, assunte 800 persone nei gabinetti degli assessori dal governatore Rosario Crocetta, questo per capire che poi l'Italia non è che rispetto alla Santa Sede è diverso, però assolutamente un'allegria. Tra l'altro 800 24 00 24 il numero per le vostre chiamate. Noi parleremo e parliamo soprattutto, ma non solo, del caso del giorno, caso politico, il caso De Luca. De Luca che fa un'unica intervista sull'Unità e dice, a parte, dice quello, su Manna dice quello che ha detto anche ieri. Sentilo qui, Manna, adesso riepiloghiamo chi sarebbe questo Manna. Per De Luca, leggo dalle vostre cronache di un signore di nome Manna, vi devo dire sinceramente che non so chi sia. Ma soprattutto, che cosa, non so chi sia, conosco solo una Manna. Nella mia memoria, questa parola mi ricorda solo 2 cose, la manna dal cielo e l'altro manna che mi ricordo, essendo a Napoli, era un certo Angelo Manna, che era un opinionista che in una televisione locale. Manna, ecco, tanto per dirne una, queste dichiarazioni. Questa che abbiamo appena mandato in onda, resa ieri di fronte alla stampa, che naturalmente non aveva diritto di fare domande, è falsa. è falsa perché il governatore, come sappiamo dalla lettera resa nota dal suo stesso avvocato ieri alla procura di Roma che indaga, in cui manifestava la sua disponibilità a farsi interrogare il 29 ottobre, dal 19 di ottobre sapeva perfettamente di essere coindagato, sa perfettamente chi è Manna, sapeva perfettamente quindi del suo braccio destro Montorsi e così via, e quindi ci dichiara una, lui che lancia questa grande sfida alla trasparenza, dichiara il falso. Questo. Oggi sull'Unità dice: è vero, sapevo dell'indagine in corso, ho mantenuto un riservo doveroso perché ci pareva corretto farlo. All'Unità dice di saperlo, però la conferenza stampa ieri di fronte a tutta la stampa italiana dice: non so niente. Tra l'altro, Oscar, non era una conferenza stampa, io lo voglio dire, cioè, chiamiamola come era, una comunicazione alla stampa, visto che è arrivato, ha parlato 13 minuti e se n'è andato non accettando neanche una domanda. Un annuncio dal balcone, perché lo stile è qui. Lo stile è questo, autoritario balcone. E mascelluto, la sfida alla trasparenza. Di che lo sapevi dal 19, di che ti sei tenuto il tuo braccio destro, di che non avete reagito, per il momento diciamo almeno questo, alla richiesta del marito del giudice. Ma chissà ora che succederà, ne vogliamo discutere con Antonio Padellaro, già direttore del Fatto Quotidiano. Buongiorno Padellaro, ben trovato. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, la domanda è, sono due le questioni, che succederà domani, ma che sta succedendo anche oggi. Allora, convince il De Luca di ieri, che dice sono parte lesa di tutta questa vicenda, che tra poco riepiloghiamo? Ma devo dire che se non ci fosse da piangere ci sarebbe da ridere, perché ormai l'imitazione di De Luca di Crozza, che a sua volta fa l'imitazione di De Luca, è perfetta, cioè, anche nelle battute, nei tempi scenici, cioè De Luca ormai è Crozza. Purtroppo parliamo del presidente del governatore della regione Campania, del presidente di un'importante regione, e quindi c'è poco da ridere. Io credo che De Luca si sia messo con le sue mani in un vicolo cieco, perché l'inchiesta è grave, è pesante, le accuse sono pesanti, perché lo sappiamo, insomma, cioè, questo giudice, questo scognamiglio che sostiene di essere separata in casa, ma qui siamo veramente questa è un po' da commedia all'italiana. Lo vogliamo riepilogare, perché forse non tutti, cioè c'è un giudice, Anna Scognamiglio, che è colei che ha deciso del ricorso di non De Luca. Da sola in collegio, però esatto, e ha un marito, questo Guglielmo Manna, anche se dice sono separata in casa. Secondo l'accusa, questo Manna avrebbe chiesto una nomina nella sanità campana, con la promessa di che cosa? O anticipare, o addirittura manipolare, grazie alle buone, alle buone frequentazioni con sua moglie, la sentenza nei confronti di De Luca. Questo sarebbe l'impianto a cui non c'è alcuna reazione del braccio destro di De Luca, né di De Luca fino a ieri. Cioè, quando arrivano i magistrati, non è che gli eroici difensori della trasparenza e della legge, fatti oggetto di questa pressione, dicono come vi permettete, ora vi denunciamo, neanche per idea. Però qual è la cosa, Padellaro, da imputare di più a De Luca, che dice io sono parte lesa, secondo te? Esattamente quello che in questo caso gli viene imputato dal PM, cioè di non aver avvertito immediatamente la procura di questo tentativo di ricatto. De Luca, come persona ma anche come istituzione, al primo accenno di questo imbroglio sarebbe dovuto correre in procura e dire: signori, sta succedendo questo, e quindi vi avverto. Invece lui non solo non lo ha fatto, ma continua a fare così, con questa, l'avete giustamente sottolineato voi, ieri in conferenza stampa ha detto una balla, che poi all'Unità ha dovuto correggere, perché penso che gli avvocati gli abbiano detto che stai dicendo. Poi anche questa storia dei separati in casa, io leggo dichiarazioni piuttosto amichevoli tra l'avvocato Manna e la signora Scognamiglio, cioè più che giudice. Dichiarazioni, intercettazioni, insomma. Intercettazioni, lui dice a lei: separata in casa, tu pensi di essere intelligente, ma anche io non sono fesso, pure io sono furbo, insomma è una conversazione piuttosto amichevole. Insomma, la sintesi qual è? È che io non vorrei veramente, perché poi questo è il paese del devi dimetterti, insomma, io penso che De Luca dovrebbe riflettere un attimo sulla situazione in cui si trova. Perché che non si sa come possa andare avanti a fare, con quale credibilità il governatore di un'importante regione in questa situazione. Ma bisogna dire anche che il guaio è precedente, perché e riguarda il Presidente del Consiglio Renzi. Esattamente. Perché se tu capisci, ti rendi conto che questo De Luca, al di là delle sue qualità di amministratore, che non sono qui in discussione, io poi non so neanche in questi mesi cosa abbia fatto per la campagna, ma mettiamo che sia il migliore amministratore del mondo, ma tu sai, Renzi, sì, Partito Democratico, che questo De Luca è in una situazione complicata, diciamo così, no? Perché è stato lo scegli come, perché lui c'è un'indagine per abuso di ufficio, perché c'è la legge Severino che appunto potrebbe sollevarlo dall'incarico, perché non lo scegli. Ma tra l'altro ieri registro Rosy Bindi, tutti ovviamente a dire che dirà Rosy Bindi, sapete che è una grande rivale politica, per usare un eufemismo, di De Luca. Rosy Bindi ha detto: non dico nulla, chiedete alla segreteria del Partito Democratico, cioè ecco, chiedete a Renzi. Ma certo, anche Rosy Bindi a questo punto si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Il problema di Renzi però è ancora, andiamo ancora oltre, perché oltre al caso De Luca, lui qualche settimana fa ha dovuto gestire malissimo il caso Marino, cioè il caso Ignazio del sindaco di Roma. Quindi qui siamo di fronte al segretario, non al Presidente del Consiglio, perché qui lui ha la doppio incarico, del segretario del Partito Democratico, che non ha assolutamente il controllo del Partito Democratico in situazioni molto importanti del Paese, perché Roma è la capitale, Napoli è una delle città più importanti del Paese. Quindi qui effettivamente Rosy Bindi, che possiamo comprendere la sua avversione nei confronti di De Luca, anche se insomma... Perché ricordiamo anche che Rosy Bindi, alla vigilia delle elezioni amministrative in Campania, mise De Luca nell'elenco degli impresentabili. Sì. De Luca se la legò al dito, disse delle cose pesantissime su Rosy Bindi, di ogni genere, le augurò praticamente una rapida fine, perché siamo a questo livello, sì. E adesso Rosy Bindi ovviamente non sta lì a guardare. Ma è chiaro. Ovviamente c'è chi ci scrive: Oscar, beh, ma avete già deciso tutto, cioè avete già fatto... No, siamo garantisti, non abbiamo deciso nulla, però riflettiamo sul fatto che il signor De Luca, alzando il tono e dicendo che dei giornali andrebbero chiusi, perché ha aggiunto anche questo ieri, ha un tono intimidatorio, certo diverso da molti altri politici, un tono intimidatore con il quale intende impedire a chi fa questo mestiere di ragionare sulle sue palesi ed evidenti contraddizioni, cari ascoltatori. Quindi noi sentiamo di svolgere un ruolo, perché quando un politico dice i giornali stampati col colore di Topolino in prima pagina, e ce l'aveva col fatto, e si presenta dicendo: non so nulla di questo Montorsi, ha detto un'altra cosa sui giornalisti. Di più, ha detto: dovrebbero farmi cavaliere del lavoro. Senti, perché ho dato ai giornalisti più lavoro di Rupert Murdoch. Senti. Credo di aver dato lavoro ai giornalisti italiani più di Rupert Murdoch. Mi aspetto di essere nominato cavaliere del lavoro. Cavaliere del lavoro sì, ma il problema è capire se invece ha le carte e ha lanciato la grande sfida alla trasparenza. Perché non ha detto ieri, oltre ad accogliere qualche domanda, da 20 giorni, del mio braccio destro, così qualcuno poteva chiedergli: e perché non avete reagito quando il marito della magistrato vi ha contattato? Tra l'altro, marito del magistrato che oggi scrive Libero, gli hanno sequestrato 8 schede SIM, per carità, cioè uno può avere... Lui era già intercettato e coinvolto in altre indagini, il marito. E invece il giudice, forse dice: erano del marito separato in casa, non lo so, però devo dire che siccome il magistrato lo sa che il marito è uno, ecco, quindi non mi meraviglio quasi di nulla. 8 schede SIM, io non lo so, professionisti per carità, non è che avere 8 schede SIM sia sinonimo di nulla, però io 8 schede SIM non ce l'ho, nemmeno io. Questo è poco, ma è sicuro. Non lo so, Padellaro ne ha 8 schede SIM, non ne ho una. Torniamo al punto, al secondo del PD, perché il problema del PD, la vicenda De Luca a questo punto, vedremo gli sviluppi, se ne occuperanno i magistrati, è d'accordo, però l'imbarazzo del PD è stato evidente fino a quest'oggi della segreteria su questa vicenda De Luca. si aggiunge a faccende come queste. Ieri, oggi il Messaggero, secondo me chi se ne accorge meglio, Renzi aveva annunciato il Dream Team per Roma perché deve raddrizzare la soluzione. Il Messaggero dice a Palazzo Chigi hanno dovuto rinunciare al Dream Team perché non si possono inventare il diritto amministrativo. Hanno fatto Tronca commissario, c'è Gabrielli per la faccenda del Giubileo, non potevano inventarsi un'altra cosa e quindi altra botta a vuoto. Nel frattempo a Roma l'ex capo di gabinetto, il presidente della Regione Lazio, Zingaretti, va a giudizio, direttamente a giudizio, perché salta l'udienza preliminare, perché aveva l'accusa di aver alterato la gara di tutto il centralino di prenotazione di tutti i servizi sanitari della Regione Lazio per 60 milioni. E questo è il capo di gabinetto di Zingaretti che volevano candidare per il dopo Marino. E così via. La Sicilia è nella condizione della quarta giunta Crocetta e il PD è scomparso. A Torino devono chiedere in ginocchio a Fassino di ricandidarsi perché Chiara Appendino, la candidata dei 5 Stelle, altrimenti corre il rischio di vincere e non solo di andare in ballottaggio, cosa che oggi i sondaggi ci dicono che è certa. E a Milano devono implorare in ginocchio Sala, col problema che metà della coalizione del sindaco Pisapia dice non ci si ritrova. Come la vedi, Padellaro, questa situazione? Ma la vedo con una visione di Renzi che in qualche modo ha concentrato tutte le sue attenzioni sulla, diciamo, sul Palazzo Chigi, perché lui è il presidente del Consiglio che sta salvando l'Italia e che ovviamente io credo ancora oggi nei sondaggi è molto votato, ancora dei consensi forti, e si sta disinteressando del partito. In questo c'è un'analogia con il Craxi, non sono il primo a farla, cioè anche Craxi quando andò a Palazzo Chigi mollò il Partito Socialista e vi ricordate che lui creò il Garofano, che era una sovrastruttura craxiana, e il Partito Socialista ormai non esisteva più. Questa disinteresse nei confronti dei problemi del partito, anche a livello locale, Giannino giustamente elencava tutti i problemi a livello locale, periferico, no, importanti città che ha il Partito Democratico, lui pensa di risolverlo con questi personaggi che vengono dalle prefetture oppure dal grandi manager che infatti sostituiscono, nella sua visione dovrebbero sostituire i cacicchi locali del Partito Democratico, lui non si fida, soltanto che questo disegno che è abbastanza chiaro si scontra poi con la realtà quotidiana, perché è evidente che oggi ancora più di ieri dopo il caso Marino la credibilità del Partito Democratico, che è pur sempre il partito che lui guida, è una credibilità a rischio, perché molti cominceranno a chiedersi quello che vi chiedevate voi, ma insomma sto partito di cui Renzi è il leader, ma sì, che partito è? Che controllo c'è? Ci dobbiamo fermare un attimo per la pubblicità. Ci sono anche ovviamente tante persone che ci chiamano all'800240024 e tra qualche minuto daremo anche loro la voce sul caso De Luca o le altre tematiche che abbiamo affrontato. È tra poco. Sono le 8:41 minuti. Eccoci, ci sono tanti qua ascoltatori anche dalla Salerno di De Luca, no? Ottimo. E quindi Alfonso da Salerno, buongiorno Alfonso. Buongiorno. Dica. Allora, per me De Luca è un uomo fattivo. Fattivo, da fastidio ai nulla facenti. Cioè uno che fa, fattivo. Uno che fa. E noi di Salerno lo sappiamo bene. Quindi lei ha massima fiducia, mi sembra di capire. Sì, certo. Buttiamo fuori De Luca e teniamoci parolai. C'è gente che parla solamente, ma non fa niente, non si sa che ha fatto nella vita. Io, guardi, in precedenza ho già scritto a voi per un dibattito che si fece su De Luca. Sì. C'avete il mio resoconto di quello che ha fatto a Salerno. Cioè, non ricordo la data, dovrei pigliarla. Ma non importa. Ci crediamo. Guardate, cioè, sull'utilizzo dei fondi europei, cose che forse in Italia non ha fatto nessuno, oppure hanno fatto, ma mettendosi i soldi in tasca. Sì. Qua a Salerno abbiamo delle opere enormi, bellissime. Mm. Insomma, lei dice De Luca qui a Salerno ha fatto. Va bene, la ringraziamo. La ringraziamo, Alfonso. Sentiamo Andrea. Andrea, come la sempre pensa? Da Salerno. Andrea, buongiorno. Buongiorno, cortesemente, questo signore che ha parlato, evidentemente Salerno la conosce da lontano, non sa nemmeno di Salerno. Beh, adesso io sono 80 anni e conosco De Luca quando stava al Partito Comunista, nulla facendo, non ha mai fatto niente. A Salerno tutte le opere che questo signore dice che cerca di magnificare sono tutte sospese. A Salerno ha fatto delle società che ha messo dentro, si è creato semplicemente il suo bacino elettorale. Non ha fatto, ci ha inguaiato. E quindi di conseguenza vedete come due persone ci ha lasciato nell'immondizia. Vabbè, giustamente la politica è così, due persone di Salerno che ci danno una visione di De Luca ben contrapposta, no? Andrea, non so, noi possiamo raccogliere l'opinione voce di uno e l'opinione ma dell'altro. Sentiamo Fabio da Milano. Fabio da Milano. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno Milan, buongiorno Nino. Volevo solo dire, io appunto essendo di Milano sicuramente ne so molto meno di entrambi i signori che comunque hanno pareri contrastanti. Ogni modo rilevo soltanto che c'è una bella lotta politica sugli amministratori locali per il PD. Questo mi fa capire due cose. Uno, che a livello centrale metto di attaccare Renzi, sembra non ce ne siano né diciamo dal punto di vista della magistratura né dal punto di vista politico. D'altra parte diciamo che sicuramente per quanto riguarda insomma invece quello che si è dimostrato con De Luca, sì, non essendoci particolari problematiche che si siano effettivamente rilevate, sembrerebbe un ma lei dice che i magistrati si inventano tutto questo per mettere difficoltà a Renzi. I magistrati stanno indagando, arrivano delle telefonate, nelle telefonate c'è la moglie di un magistrato che vende una sentenza e lei dice che se lo inventano. Fabio, ma dai, su, abbia pazienza. Che potrebbe aver venduto una sentenza. Potrebbe, ma intanto di quello sta parlando, sì, sta offrendo questa ipotesi. Certo. I magistrati fanno il loro mestiere. Comunque grazie Fabio. Andrea da Arezzo, andiamo ad Arezzo da Marco. Marco, buongiorno. Ah, buongiorno carino, le similitudini con un altro presidente del consiglio sono carine, questa cosa qui che quando viene attaccato. Comunque il mio intervento si metteva sulla domanda che avete fatto prima di chiudere. Ora che tutti rimanete sorpresi politici, giornalisti, sul fatto che Renzi abbia semplicemente usato la sua posizione nel Partito Democratico per diventare Presidente del Consiglio, ma questo è un argomento che si usava 3 anni fa quando contro Bersani faceva le primarie contro Bersani, che veniva detto chiaramente che lui vuole diventare il segretario del partito pur non essendo adatto, come lui ha riconosciuto, solo per fare Presidente del Consiglio. E allora che tutti cadete dalla seggiola, non ci credo. È così. Lui aveva l'obiettivo di fare Presidente del Consiglio, non ha finita una nella vita, è diventato il virginello, quello per cui lui era il nuovo che ha fatto il presidente della provincia di Firenze, ha fatto il sindaco del comune di Firenze, campato sempre con la politica, lui era il nuovo tutto il resto, Alberto Marcio, poi è più vecchio della vecchia classe democristiana, come da sempre hanno fatto, regalano qualcosa per andare alle elezioni. Però la cosa singolare è che parliamo di De Luca e arrivano le telefonate, vedi che Renzi divide oramai, vabbè, molto più che all'inizio. Insomma, il segretario di quel partito lì e poi è così, arrivano, tutti danno una lettura legata, o molti danno una lettura legata a Renzi. No, ma sono meta letture, però la vicenda in sé mi pare di capire, ormai siamo abituati un po' tanti, non generalizzo, in Italia, a non prenderle mai sul serio. A vedere sempre le doppie, terze, quarte letture, i gomblotti. Allora, tra l'altro, ma sai che il PD si è squagliato? Noi abbiamo provato a chiamare qualcuno del PD campano. Facciamo sentire Orlando, ministro della giustizia, l'unico che ha fatto una dichiarazione, perché poi sai, se non ministro vai a qualche convegno e qualche dichiarazione te la strappano. È obbligato a farla. No, Orlando. Sono preoccupato perché si tratta ancora di una vicenda non particolarmente esaltante. Purtroppo è una vicenda che colpisce anche la giurisdizione, da questo punto di vista non si può che essere rammaricati. Vabbè, rammaricato, non una grande dichiarazione, d'altronde che cosa si può dire di più in questo momento? Renzi per il momento sta in silenzio. Abbiamo chiamato il PD Campano, alcuni, abbiamo scritto a Rosaria Capacchione, Gennaro Migliore ci aveva detto che veniva, poi ha avuto un impegno improvviso. Era stato candidato renziano alle primarie, aveva detto sì, poi ha detto di no. Pina Picerno abbiamo contattato, insomma, a capire. Tutti in silenzio. Al momento sì, anche sui giornali è vero che non però ci sono dichiarazioni. Io comunque sottolineo al governatore De Luca che ieri la sua spacconaggine, una certa domanda, gli è andata male, perché oggi i giornali di opinioni diverse, se il Corriere della Sera fa un titolone lo sceriffo ha perso la stella, e se Repubblica dall'altra parte dice il finto vittimista, così, ecco, vuol dire che non ha questa strategia sua non funziona, forse è il caso che scenda un pochino sulla terra questo Ducetto Campano addirittura. A questi modi io non credo di rischiare la querela. Il modo della sua comunicazione è intenzionalmente teso ad affermare questo tratto, Lui invece cosa dice? Keep calm, ha detto anche questa frase, keep calm e al lavoro. Senti De Luca, sentilo qui, keep calm. Noi stiamo calmissimi peraltro, però vabbè, questo è dato di fatto. Senti, il governatore vittimista, prigioniero di se stesso, dice Repubblica, prigioniero di se stesso, cioè di questo ruolo che lui si è dato, lo spaccamontagne che fa tutto lui, che tutti lo attaccano così per... qui c'è una vicenda precisa, ieri lui ha mentito, questo è il fatto. Sentiamo Carmelo da Siracusa, buongiorno Carmelo. Buongiorno Milan, io molto brevemente vorrei dire, esprimere un'opinione diversa da quella che da qualche giorno sento sulla vostra radio, e quindi un'opinione un po' diversa da quella espressa bene, da Gomez, Giannino e Padellaro, perché vede, secondo me non si può dire noi siamo garantisti fino a sentenza passata in giudicato e poi dare un'immagine in un certo senso forcaiola tra virgolette. Prima questione, conoscere l'indagine secondo me non significa che De Luca conosceva Manna, prima questione. Seconda questione, dire che si tratta di un ricatto è un'altra inesattezza, perché si tratta di una eventuale probabile induzione prevista dall'articolo 319 della legge Severino, che fino a qualche anno fa non era prevista neanche come reato. Allora? Terza questione, la sentenza, così come dicono i PM, non fu pilotata. No, i PM, quarta, perdono, i PM lei dice che lo dicono, ma stanno indagando, quindi sì, non dica il per PM, caso, non so chi la manda, però stia attento a non dire che i PM dicono che non fu pilotata, perché questo si legge in sentenza, per il momento i PM indagano. Scusi, io sto leggendo qua su un giornale, sì. I PM, due punti, non fu sospeso con sentenza pilotata. Quarta questione, gradirei, sarebbe utile per tutti gli ascoltatori che si facesse una bella trasmissione sulla legge Severino, che io giudico un mostro. Vabbè, giuridico. Quella è un'altra Carmelo, questo possiamo essere d'accordo, perché delegare ai magistrati chi si candida, questo non c'è dubbio, e anche le differenze poi tra i politici nazionali e quelli locali, però noi non stiamo parlando di questo, noi stiamo parlando di una ipotesi su cui la procura indaga, lui viene indagato, lo sa il 19, il 29 chiede di essere intervistato, tutto questo noi lo apprendiamo in realtà dai suoi avvocati, perché lui dice in pubblico che non sapeva nulla, che il suo collaboratore, anzi ha fatto scrivere ai giornali che quando il suo collaboratore sabato gli annuncia le dimissioni, non dicendogli perché, lui si sturba perché dice ma cosa diavolo mi stai nascondendo, tutte sì, cioè, storie questa, che non stanno in piedi, caro il signor Carmelo. Il punto fondamentale è che De Luca sapeva di questa inchiesta, ecco. E come dice oggi all'Unità, dice io non l'ho detto per mantenere il riservo, questa è la versione di De Luca, sta di fatto che non l'ha detto, cioè quando ha saputo di questa inchiesta per giorni, per due settimane non ha detto nulla di questa inchiesta. Ma vogliamo chiudere con gli Oscar, caro Oscar, li diamo? Yeah. Oscar oggi va a Domenico Quirico, giornalista che spesso sentiamo e che oggi ha intervistato, ha avuto il merito di intervistare persone di cui spesso parliamo e non sappiamo nulla, cioè ha intervistato un jihadista, uno di coloro che combatte in Iraq e ci vuole uccidere in quanto infedeli. Il merito, secondo me, di questa intervista, al di là del contenuto, è di farci conoscere, entrare nella mente di persone di cui parliamo e scriviamo spesso senza poi mai vederle in faccia, sentirne i loro pensieri. Leggetela sulla stampa perché è molto interessante. Sì, è veramente molto bella, sono d'accordo con te. Io diciamo, ne do almeno due di Oscar. Il primo è a una coppia di genitori italiani, Maria e Cristina Di Paolo, che dalla cui vicenda, loro sono portatori di una malattia che si può trasmettere geneticamente, nei confronti della loro volontà di avere dei figli, la legge 40 impediva l'esame genetico preimpianto in caso di patologie genetiche trasmissibili, e grazie alla loro testa dura la Corte Costituzionale ieri ha dato un altro colpo a questa legge del piffero, che è la legge 40, naturalmente con commenti di cattolici integralisti che dicono questa è l'eugenetica nazista. No, questa è semplicemente la possibilità di evitare malattie geneticamente trasmissibili. Quindi secondo me Maria e Cristina Di Paolo, che sono intervistati sulla stampa di oggi, meritano l'Oscar, come lo merita chi però sta reagendo anche al fatto che l'Unione Europea dà il bollino ai prodotti agricoli israeliani delle colonie, perché naturalmente dobbiamo in questo mettere il timbro contro Israele, quindi viva Corriere della Sera che solleva il caso, viva Pierluigi Battista che ne scrive. So che questi temi dividono molto, ma io penso che la democrazia e la libertà vada difesa anche nel caso israeliano. L'Unione Europea in questo forse non la pensa proprio come me. Allora, dobbiamo fermarci, caro Oscar, con Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli e Peter Bescapè. Vi diamo appuntamento a domattina. A domani e continuate con Radio 24, Mix 24 con Minoli, con Mario Secchi, con Petrangelo Buttafuoco. Personaggetti, gentucola, cialtroneria pura.